Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Una nuova conoscenza, una spiacevole interruzione e uno scontro increscioso. Mr. Pickwick era stato un po' in pensiero per l'insolita assenza dei due amici, resa ancor più preoccupante dal contegno misterioso che avevano assunto durante tutto il giorno. Con piacere tanto maggiore, dunque, egli si alzò a salutarli quando rientrarono e con tanto maggior interesse si informò di che cosa li avesse tenuti lontani dalla sua compagnia. E Mr. Snodgrass stava per dare, in risposta a queste sue domande, un resoconto storico dei fatti da noi già riferiti, quando si fermò improvvisamente alla vista di uno sconosciuto che, insieme a Mr. Tupman e al loro compagno di diligenza del giorno prima, e di questi non men singolare, era presente alla riunione. Era un uomo dall'aspetto travagliato. Il pallore del volto e gli occhi profondamente infossati erano resi ancor più impressionanti di quanto già non fossero per natura dai capelli ispidi e neri che gli cadevano in arruffato disordine fino a mezza faccia. Gli occhi erano lucidi e penetranti in modo quasi anormale, e gli zigomi alti e prominenti, e le guance così lunghe e scavate da far pensare che se le stesse succhiando dall'interno in quel momento con qualche contrazione muscolare, se la bocca semiaperta e l'espressione immobile non avessero dimostrato invece che quello era il suo aspetto ordinario. Intorno al collo portava una sciarpa verde, le cui larghe frange gli si sparpagliavano sul petto e apparivano di tanto in tanto attraverso gli occhielli logori di un vecchio panciotto. Esternamente portava un lungo soprabito nero, sotto il quale indossava larghi calzoni scuri e grandi stivali in uno stato di avanzata decrepitezza. Questo era lo squallido personaggio su cui si fermarono gli occhi di Mr. Snodgrass, e subito Mr. Pickwick, indicandolo con la mano, lo presentò. «Ecco un amico del nostro amico. Abbiamo scoperto stamane che il nostro amico ha dei legami col teatro locale, benché non desideri che si venga a sapere. E questo signore è un membro di quell'arte. Stava per raccontarci un aneddoto di ambiente teatrale quando siete entrati. Aneddoti a dozzine!» disse lo sconosciuto vestito di verde, quello del giorno prima, avvicinandosi a Mr. Winkle e parlando con tono basso e confidenziale. «Un bel tipo, un caratterista drammatico, non un vero attore, strano uomo. Ogni sorta di disgrazie. Jimmy il triste, lo chiamiamo fra amici». Mr. Winkle e Mr. Snodgrass salutarono educatamente il signore indicato con l'elegante nomignolo di Jimmy il triste. Ordinarono brandy e acqua come il resto della compagnia e presero posto intorno alla tavola. Bisogna supporre che Mr. Pickwick stesse per esprimere idee che avrebbero illuminato il mondo, se non il Camigi, quando fu così interrotto, poiché fissò severamente in volto il cameriere e poi diede un'occhiata circolare alla compagnia come per chiedere informazioni sui nuovi venuti. «Oh», disse Mr. Winkle alzandosi, «alcuni amici miei, fateli entrare». «Persone molto simpatiche», aggiunse dopo che il cameriere si fu ritirato, «ufficiali del 97° con cui ho fatto conoscenza stamane, in modo assai curioso. Mi piaceranno moltissimo». Mr. Pickwick riacquistò subito la sua serenità. Il cameriere rientrò, introducendo tre signori nella stanza. «Il tenente Tapleton», disse Mr. Winkle. «Il tenente Tapleton, Mr. Pickwick. Il dottor Payne, Mr. Pickwick. Mr. Snodgrass lo conoscete già. Il mio amico Mr. Tupman, il dottor Payne, il dottor Slammer, Mr. Pickwick. Mr. Tupman, il dottor...» Qui Mr. Winkle si fermò improvvisamente, perché sia Mr. Tupman sia il dottore apparivano fortemente emozionati. «Questo signore l'ho già incontrato», disse il dottore calcando sulle parole. «Davvero?» disse Mr. Winkle. «E anche quell'individuo, se non sbaglio», disse il dottore dando uno sguardo penetrante allo sconosciuto vestito di verde. «Mi sembra anzi di aver fatto a quell'individuo un invito molto pressante la sera scorsa, che però egli pensò bene di declinare». Così dicendo, il dottore squadrò con magnanima collera lo sconosciuto e sussurrò qualcosa al suo amico tenente Tapleton. «Non può essere», disse questi alla fine. «Vi dico di sì», rispose il dottor Slammer. «Dovete prenderlo immediatamente a calci», sussurrò il proprietario dello sgabello con grande importanza. «State zitto una buona volta, Payne», interruppe il tenente. «Permettete che vi chieda, signore», disse poi rivolgendosi a Mr. Pickwick, che era piuttosto meravigliato da questo modo di agire assai scorretto, «permettete che vi chieda, signore, se quell'individuo appartiene al vostro gruppo». «No», rispose Mr. Pickwick. «È un ospite. È membro del vostro circolo o mi sbaglio? Chiese il tenente. No, certo, rispose Mr. Pickwick. E non porta mai i bottoni del vostro circolo? Disse il tenente. No, mai, replicò Pickwick stupito. Il tenente Tappleton si girò verso il suo amico dottor Slammer, alzando impercettibilmente le spalle come per insinuare un dubbio sulla precisione dei suoi ricordi. Il dottor Slammer appariva sdegnato ma perplesso, e Mr. Payne guardava con aria feroce il radioso volto inconsapevole di Mr. Pickwick. Disse il dottore rivolgendosi improvvisamente a Mr. Tupman con un tono che lo fece sobbalzare come se gli avesse cacciato a tradimento uno spillo nel polpaccio. Voi eravate al ballo ieri sera. Mr. Tupman emise un flebile sì, guardando assai a disagio verso Mr. Pickwick. Ed eravate con questo individuo, disse il dottore indicando lo sconosciuto tuttora impassibile. Mr. Tupman ammise anche questo. Ebbene, signore, disse il dottore allo sconosciuto, vi chiedo ancora una volta, in presenza di questi testimoni, se preferite darmi il vostro biglietto da visita ed essere trattato da gentiluomo o se volete costringermi a infliggervi qui e subito una punizione corporale. Un momento, signore, disse Mr. Pickwick. Davvero non posso permettere che questa cosa vada ancora avanti senza qualche spiegazione. Tupman, raccontate i fatti. Mr. Tupman, così solennemente interpellato, espose brevemente i fatti, sorvolando alquanto sulla questione del vestito. Si diffuse largamente sul concetto che tutto era accaduto dopo pranzo e concluse con qualche espressione di pentimento e lasciò lo sconosciuto a discolparsi come meglio poteva. Questi stava appunto per incominciare a farlo quando il tenente Tappleton, che lo aveva osservato con grande curiosità, disse in tono sprezzante: «Non vi ho già visto in teatro, signore?» «Certo», rispose lo sconosciuto senza batter ciglio. «È un attore girovago», disse il tenente sempre più altezzoso rivolgendosi al dottor Slammer. «Recita nella commedia che gli ufficiali del 52esimo hanno allestito per domani sera al teatro di Rochester». «Non potete andare avanti in quest'affare, Slammer. Impossibile!» «Assolutamente», disse il maestoso Payne. «Spiacente di avervi messo in questa situazione», disse il tenente Tappleton a Mr. Pickwick, «e mi permetto di farvi notare che il miglior modo di evitare che simili scene si ripetano in futuro è una maggiore esigenza nello scegliere la propria compagnia. Buonasera, signore». E uscì fieramente dalla stanza. «E io mi permetto di dirvi», disse l'irascibile dottor Payne, «che se fossi stato Tappleton o se fossi stato Slammer, vi avrei tirato il naso, signore, e l'avrei tirato a tutti quelli che sono con voi. Il naso, signore, a tutti, dico. Il mio nome è Payne, dottor Payne del 43esimo. Buonasera, signore». Concluso il suo discorso e pronunciate le ultime tre parole con tono vibrato, si avviò con incedere maestoso dietro al suo amico, subito seguito dal dottor Slammer, che non disse nulla, ma si accontentò di incenerire la compagnia con uno sguardo. Crescente rabbia ed estremo sbalordimento avevano gonfiato il nobile petto di Mr. Pickwick, quasi al punto di fargli saltare il panciotto mentre veniva lanciata la sfida di cui sopra. Egli restò inchiodato dove si trovava, con lo sguardo fisso nel vuoto. Ma nel veder richiudersi la porta, rientrò in se stesso. Si scagliò in avanti con furia nello sguardo e fiamme negli occhi. La sua mano già correva al lucchetto della porta. Ancora un istante si sarebbe chiusa sulla gola del dottor Payne del 43esimo se Mr. Snodgrass non avesse afferrato il suo capo venerato per le falde della giacca, tirandolo indietro. «Tenetelo!» esclamò Mr. Snodgrass. «Winkle! Tupman non deve rischiare la sua ragguardevole vita per una ragione come questa!» «Lasciatemi andare», disse Mr. Pickwick. «Tenetelo stretto!» urlò Mr. Snodgrass, e gli sforzi riuniti dell'intera compagnia ridussero infine Mr. Pickwick in poltrona. «Lasciatelo, lasciatelo adesso», disse lo sconosciuto vestito di verde. «Brandy e acqua!» «Un simpatico vecchio signore, coraggio da vendere! Mandate giù questo, eh? Eccellente medicina!» Dopo aver provato in via sperimentale le virtù di una miscela preparata dal triste, lo sconosciuto accostò il bicchiere alle labbra di Mr. Pickwick e il resto del suo contenuto sparì rapidamente. Vi fu una breve pausa. Brandy e acqua avevano fatto il loro effetto. Gli amabili tratti di Mr. Pickwick ritrovarono presto la loro espressione abituale. «Non sono degni della vostra attenzione», disse il triste. «È vero», rispose Mr. Pickwick. «Non lo sono. Mi vergogno di essermi lasciato trasportare dalla collera. Tirate la vostra sedia vicino alla tavola». Il triste eseguì prontamente. Si fece di nuovo cerchio intorno alla tavola e di nuovo regnò la pace e l'armonia. Solo nel petto di Mr. Winkle permaneva una certa riluttante irritazione, forse per il furto temporaneo del suo vestito, benché non sia logico supporre che un episodio così insignificante possa avere eccitato sentimenti di collera, sia pure passeggeri, in un petto pickwickiano. Ma a parte questo, tutti erano tornati di buon umore e la sera si concluse con la stessa giovialità con cui era incominciata. Advantage of me. just because you know I can't see. I'm a traveling man just trying to get along, singing my song. A traveling man walking all over the land. Won't you lend your hand to me and help me to understand? I'm a traveling man, never stopping at the Un capitolo breve che mostra, fra l'altro, come Mr. Pickwick si trovò a dover guidare e Mr. Winkle a cavalcare, e in che modo ci riuscirono. Luminoso e bello era il cielo, dolce l'aria e splendido l'aspetto di ogni cosa intorno, quando Mr. Pickwick si affacciò alla spalletta del ponte di Rochester, contemplando la natura e aspettando di far colazione. E veramente la scena era tale da affascinare intelligenze assai meno portate alla meditazione di quella che la stava osservando. Sulla sinistra dello spettatore si stendevano le mura in rovina, rotte in più punti e sovrastanti in altri, la bassa spiaggetta con la loro struttura rude e massiccia. Enormi grovigli di alghe pendevano dalle pietre aguzze e sbrecciate e tremavano a ogni fiato di vento, e l'edera verde stringeva indolente amplesso i merli anneriti e in rovina. Più in là si ergeva l'antico castello, dalle torri scoperchiate, dalle mura massicce e sgretolate, eppure memore e superbo della propria forza e potenza, quando 700 anni prima aveva echeggiato di metallici clangori di armi o risuonato del chiasso di feste e banchetti. E tutte e due le rive del Medway, coperte di campi, grano e pascoli, punteggiate qua e là da un molino a vento, da una chiesa lontana, si allungavano a perdita d'occhio in un ricco e vario paesaggio, reso più bello dalle ombre cangianti che lo percorrevano rapidamente, via via che le nubi sottili e rarefatte scivolavano nella luce del sole mattutino. Il fiume, riflettendo l'azzurro del cielo, brillava e scintillava e scorreva senza rumore, e i remi dei pescatori si immergevano nell'acqua con un limpido sciacquio, mentre le barche pesanti e pittoresche scivolavano calme sulla corrente. Mr. Pickwick fu distolto dalle piacevoli fantasie che quella vista gli aveva suscitato da un profondo sospiro e da una pressione sulla spalla. Si voltò e al suo fianco stava Jemmy il Triste. «In contemplazione del paesaggio?» chiese il Triste. «Sì?» disse Mr. Pickwick. «E soddisfatto di essersi alzato così presto?» Mr. Pickwick assentì con un cenno del capo. «Ah, la gente dovrebbe alzarsi presto e vedere il sole in tutta la sua magnificenza. poiché questo splendore raramente dura tutto il giorno. Il mattino del giorno e quello della vita non sono che troppo simili. Ciò che dite è vero, signore, disse Mr. Pickwick. È perfino banale il detto. La mattina è troppo bella per durare, continuò il triste. Quanto più proprio sarebbe applicarlo alla nostra vita di ogni giorno. Dio, che cosa pagherei per tornare ai giorni della mia infanzia? Oppure potrebbe scordare per sempre. Dovete aver conosciuto molte sventure, disse Mr. Pickwick pieno di compassione. Molte, disse subito il triste, molte. Più di quanto non si possa immaginare vedendomi. Tacque un istante, poi aggiunse bruscamente. Non vi è mai passato per la testa in una mattina così che se annegaste potreste trovare felicità e pace? Santo cielo, no! Rispose Mr. Pickwick scostandosi un poco dal parapetto, mentre la possibilità che il triste lo buttasse di sotto a titolo di esperimento gli passava come un lampo per la mente. Io sì, l'ho pensato spesso, disse il triste senza far caso al gesto. L'acqua tranquilla e fresca mi sembra mormorare un invito a fermarsi, a riposare. Un salto, un tonfo, una breve lotta, un vortice che si forma per un attimo intorno a voi e che poi gradualmente si quieta in un tranquillo sciacquio. Le acque si sono richiuse sulla vostra testa e si è chiusa anche la storia delle vostre miserie e sfortune. Per sempre. Gli occhi infossati del triste ardevano mentre parlava, ma poi quasi subito quella momentanea eccitazione venne meno. E, resistendo a un pressante invito a colazione di Mr. Pickwick, lasciò questi alla sua locanda e si allontanò lentamente. Mr. Pickwick trovò i suoi tre compagni già alzati e in attesa del suo arrivo per mettersi a tavola, dove era apparecchiata una colazione dall'aspetto tentatore. Si sedettero e il prosciutto cotto, le uova, il tè, il caffè e varie altre cose incominciarono a sparire con una rapidità che testimoniava insieme della bontà del cibo e dell'appetito dei suoi consumatori. «Allora», disse Mr. Pickwick, «a Manor Farm, come ci andiamo?» E sarà forse meglio che chiediamo al cameriere, disse Mr. Tupman. E il cameriere fu subito convocato. Dingley Dell, signori, 15 miglia, signori, una traversa. Volete un calesse, signore? Un calesse non porta più di due persone, disse Mr. Pickwick. «Vero, signore? Scusate, signore. Una carrozza a quattro ruote, bella, due posti dietro, uno davanti per il signore che guida. Oh, scusate, signore, ha solo tre posti. Che cosa facciamo?» disse Mr. Snodgrass. «Forse a uno dei signori piacerebbe cavalcare», suggerì il cameriere guardando Mr. Winkle. «Ottimi cavalli da sella. Uno qualunque degli uomini di Mr. Wardle, venendo a Rochester, li riporterà indietro, signore». «Quello che ci vuole», disse Mr. Pickwick. «Winkle, andate voi a cavallo». Mr. Winkle, nei più profondi recessi del suo cuore, nutriva considerevoli dubbi sulla propria abilità di cavaliere, ma non volendo che di tali dubbi si avesse il benché minimo sospetto, rispose subito con grande audacia: «Sicuro! Che bellezza!» Mr. Winkle era corso incontro al suo destino. Non c'era più scampo. «Per le 11, allora, davanti alla porta», disse Mr. Pickwick. «Benissimo, signore», rispose il cameriere. Il cameriere uscì, la colazione fu portata a termine e i viaggiatori salirono nelle rispettive camere da letto per preparare un vestito di ricambio da portare con sé nella loro imminente spedizione. Mr. Pickwick aveva ultimato i suoi preparativi e stava guardando i passanti sulla strada attraverso le persiane della sala da pranzo quando il cameriere entrò ad annunciare che la carrozza era pronta, annuncio che la vettura confermò da sé comparendo subito dopo davanti alle suddette persiane della sala da pranzo. Era uno strano trabiccolo verde a quattro ruote, con un basso sedile a due posti, a forma di truogolo nella parte posteriore, e un'alta gruccia davanti per il guidatore, tirato da un immenso cavallo scuro che ostentava una gran simmetria di ossa. Là vicino stava uno stalliere che teneva per la briglia un altro immenso cavallo, certo un parente prossimo di quello della carrozza, sellato e pronto per Mr. Winkle. «Santo cielo!» disse Mr. Pickwick mentre aspettavano sul marciapiede che venisse caricata la roba. «Santo cielo, chi guiderà? Non ci avevo pensato». «Ma voi, naturalmente», disse Mr. Tupman. «Naturalmente», disse Mr. Snodgrass. «Io?» esclamò Mr. Pickwick. «Niente paura, signore», intervenne lo stalliere. «Garantisco che è tranquillo. Un bambino in fasce potrebbe guidarlo». «Non è ombroso», si informò Mr. Pickwick. «Ombroso, signore, non si adombrerebbe nemmeno se dovesse incontrare un branco di scimmie vagabonde con il fuoco attaccato alla coda». A questo non c'era più nulla da obiettare. Mr. Tupman e Mr. Snodgrass entrarono nel truogolo. Mr. Pickwick salì sulla gruccia e appoggiò i piedi su una pedana ricoperta di panno messa là proprio per questo scopo. «Ehi, Lucido William!» disse lo stalliere al suo aiutante. «Dà le redini al signore!» Lucido William, così chiamato probabilmente per i capelli impomatati e la faccia unta, mise le redini nella sinistra di Mr. Pickwick e lo stagliere gli cacciò la frusta nella destra. «Le!» gridò Mr. Pickwick mentre l'alto quadrupede mostrava una decisa propensione a rinculare dentro la finestra della sala da pranzo. «Le!» fecero eco Mr. Tupman e Mr. Snodgrass dal truogolo. «Gli piace giocare, signore», disse lo stagliere a titolo di incoraggiamento. «Tu tienilo fermo, William!» Il mozzo di stalla frenò la fuga dell'animale e lo stalliere corse ad aiutare Mr. Winkle a salire. «Dall'altra parte, signore, prego!» «Mi venga un accidente se quello non stava per salire alla rovescia», sussurrò ghignando un postiglione al cameriere che si divertiva un mondo. Mr. Winkle, debitamente istruito, si arrampicò in sella all'incirca con la stessa difficoltà che avrebbe incontrato a scalare la murata di un vascello di linea. «Tutto bene?» chiese Mr. Pickwick con l'intimo presentimento che tutto andasse male. «Tutto bene», rispose Mr. Winkle debolmente. «Partenza!» gridò lo stalliere. «Tenetelo corto di briglia, signore!» E partirono, carrozza e cavallo, con Mr. Pickwick a cassetta dell'uno e Mr. Winkle sul dorso dell'altro, a delizia e godimento di tutto il cortile della locanda. Negro che le castane suggetta, a Milordo sturiente paglietta, poco riva buon ganna d'arrivita, che se c'è scritto ciopponno sperrà, Milordo sturiente paglietta, ganna d'arrivita ciopponno sperrà. Negro che la castana suggetta, a Milordo sturiente paglietta, poco riva buon ganna d'arrivita, d'arrivita, d'arrivita, che se c'è scritto ciopponno sperrà, Milordo sturiente paglietta, poco riva buon ganna d'arrivita, che se c'è scritto ciopponno sperrà, che se c'è scritto ciopponno sperrà. Più pretende passata signore, chi più bella che smanaca torre, e fra tanta la negra scura, mura, mura, se bacia cucca, chi pretende passata signore, mura, mura, se bacia cucca, chi più bella che smanaca torre, mura, mura, se bacia cucca, se bacia cucca. Negra che la castana soggetta, a milord sturiente paglietta, vo curriva von canna d'arrita, che se scritta c'è panna sperra, milord sturiente paglietta, canna d'arrita c'è panna sperra. Negra che la castana soggetta, a milord sturiente paglietta, vo curriva von canna d'arrita, d'arrita, d'arrita, che se scritta c'è panna sperra, milord sturiente paglietta, vo curriva von canna d'arrita, che se scritta c'è panna sperra, che se scritta c'è panna sperra. Piero Baldini ha letto Il Circolo Pickwick di Charles Dickens. Riduzione di Carlo Talini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.